Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, sono le 22 passate da un minuto di questo 25 settembre, un po', come dire, confusionario, Maurizio, ci può dire? Sì, buonasera. Leggermente confusionario. Sono cose che capitano. Imprevisti, insomma, che possono imprevisti capitare. Imprevisti che possono capitare. Però per il live ci siamo, per questo live in acustico anche questa sera, il classico live di Blu Radio Veneto, cioè quello dal mercoledì dalle 22 alle 24, c'è in tutta la sua interezza con questa band che ci raggiunge dalla provincia di Treviso, ma adesso insomma ci faremo raccontare tutto quanto. Prima di tutto, una buonasera da Agostino Spolaore e una buonasera da Maurizio Calzavara. Sì, buonasera caro Agostino. Tu, questo è il tuo regno, quindi è giusto presentare. Beh, il mio regno, è il regno del mercoledì, è la tua giornata. È un bel regno, un regno rock. Stasera siamo un po' rock e un po' no. Un po' rock, un po' un no. Di tutto. Allora, prima di presentare i Dau Sasha, vi ricordo le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, e poi ancora il nostro numero telefonico, quello in studio, è lo 049-875-6423, mentre per i vostri sms dovete formulare il 346-2320-033 se volete mandare qualche messaggio ai nostri amici che ci sono venuti a trovare questa sera, perché no, loro saranno ben felici, come dico sempre, di rispondere alle vostre domande, anche i vostri saluti e quant'altro, insomma, quello che vi può interessare. Poi ancora il nostro sito, e cioè www.bluradioveneto.it, da dove potete ascoltarci in streaming 24 ore su 24, assolutamente in diretta, quindi in qualsiasi parte del mondo voi siate, ci state ascoltando. E all'interno del nostro sito trovate anche tutte le recensioni inerenti a chi passa in questa sede, e poi anche i podcast che resteranno sempre a vostra disposizione gratuitamente ogni qualvolta lo desiderate ascoltare oppure anche scaricare, perché no. E allora, e poi ancora vi ricordo le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che è anche curatore di questa serata e di questa band in acustico di questo momento, insomma tra qualche istante ne sentiremo parlare. E quindi lo salutiamo caramente. Ho detto tutto, Maurizio, manca qualcosa? No, hai detto assolutamente tutto. Come... E allora mi ritiro e ti lascio. No, non devi ritirarti, fai parte del programma. Sì, adesso io... Diamo il benvenuto a loro comunque. Chiaramente, sì, mercoledì è mercoledì del rock, ma non soltanto del rock. Stasera abbiamo una band che ha aperto i tre Allegri Ragazzi Morti nel 2008. È così? Chi mi vuole rispondere? Chi c'era? Ecco, se gli date un microfono forse riesce a parlare. Adesso rispondo, siamo in sette cari ascoltatori, quindi un po' complicato, in otto con me compreso. Dimmi tutto. Allora, io sono Daniele, il batterista. Stasera non hai la batteria, no, però. Fa fortuna, no? Non ci stava, dici? Ed è un peso più grande portarla. Ma è una bella cosa la batteria. Sono parla vicino al microfono, okay. Per cortesia. Mm. Quindi nel 2008 c'eri. Sì, c'ero. E anche hai aperto i tre Allegri Ragazzi Morti. Sì, perché organizzavo il festival dove abbiamo... Come si chiama il festival? Cocomeri Sonori. È bello questo Cocomeri Sonori, è interessante. Sì, perché è nato dall'unione di due associazioni. Mm. Una era Nostra Rompere i Cocomeri. Perfetto. E l'altra questa non l'avevo mai sentita, però. No? È una new entry assoluta, vero Agostino? Sì, infatti non lo conoscevo questo. Esattamente. L'altra? Era un nome simpatico. Assolutamente simpatico. E l'altra era... Perché stai ridendo? Stanno ridendo. Perché no. Rompevano i cocomeri. Cioè, le angurie, l'altra, insomma, scusami. E l'altra Libertà Sonore. E quindi dall'Unione abbiamo tirato fuori i cocomeri sonori. E dato che io l'ho organizzato e lo organizzava anche un mio amico, e cercavano un gruppetto locale da far suonare prima di tre Allegri Ragazzi Morti, ci hanno chiesto di suonare, insomma. E i tre Allegri Ragazzi Morti facevano punk, fanno ancora punk. Il vostro non è punk, ma punk folk sì, però. Sì, però all'epoca. Non facevamo neanche folk, facevamo più punk rock. Eravate punkettari, sì, assolutamente. Nel disco che abbiamo qui da sentire, da ascoltare, c'è qualche rimasuglio, c'è qualcosina che ricorda quella tensione emotiva? Più compact folk che no punk folk, cosa dici? Sì, sicuramente. Perché non abbiamo perso l'anima andando avanti. Abbiamo cambiato. Avete cambiato, avete cambiato perso. Come? Dal 2008 come è stata allargata la formazione? Beh, allora... Nel maggio del 2011, prima è arrivato Simone, il bassista. Il bassista. si vede proprio da bassista. Esatto, si vede... prima c'era Federico, è proprio cantante. Brutto poi essere un bassista. È un bassista. Federico il cantante. Sì. Prima c'ero io, ma ero troppo bello, allora abbiamo chiamato lui. Ah, mi pare giusto. E poi? E poi nel maggio del 2011 è arrivata Lorenza e Giorgia. Quindi le due ragazze che suonano, una il violino e una la fisarmonica. Esatto. Quindi hanno abbellito la band. No, scusa, dimmi. Belle ragazze. Belle ragazze. Hai detto ragazze, ma sono belle ragazze. Ma indubbiamente, scusami, belle ragazze. Hai perfettamente ragione, belle ragazze. Te l'ho sempre detto, Maurizio, che dovevo essere sempre io lì. Dimmi, dimmi. Dovevo essere io lì. Sì, dovevi dirlo teste robe, sì. Agostino. Ma insomma... Allora, no, però li presentiamo innanzitutto, perché abbiamo fatto un purpurì, ma insomma poi abbiamo capito poco. Allora io direi di fare nome per nome, così sentiamo anche le loro voci. Cioè, allora, Daniele, che sei tu alla batteria. Poi c'è Simone al basso. Sì, ciao a tutti. Francesco alla chitarra classica. Sì, ciao. Federico alla voce. Ciao. E poi abbiamo le tre femminucce, le tre belle ragazze, cioè al violino Lorenza. Ciao. Alla fisarmonica Giorgia. Ciao. E alla voce più alla chitarra elettrica, sì. Serena, giusto? Sì. Che ciao. È l'unica che canta anche in russo. Esattamente, sono dove io. L'hai beccato sta lingua? Ma io studio russo da quando ho 16 anni. Ah. Ho iniziato sì alle superiori e lo sto continuando con l'università. Ah, per cui, che bello. Sì, e fra poco parto per Mosca. Ah, wow. Sì. Ti ho interrotto, Maurizio. Benissimo, allora... Siamo arrivati con un piccolo demo, avete fatto, mi pare, precedentemente a questo disco, no? Una cosa di questo genere. Sì. Mm. Sì, abbiamo fatto un demo con tre canzoni, con giusto? Tre canzoni? Sì, sì, tre canzoni. Tre canzoni, l'abbiamo registrato un po'... Casareccio. Home. Con un nostro... in uno studio di un nostro amico. E niente, era molto più rock, più rockettaro, anche punk forse, leggermente sì. Punk, quindi il primo amore non si scorda mai, sì, esattamente, però poi siete arrivati col nuovo disco del 2012, il disco effettivo, il vostro primo album, possiamo dire 2013 questo. È interessante perché non c'è molto folk, ma anche qualcuno ha scritto combat folk, ma vorrei saperlo poi da voi, svilupperemo il discorso, amplieremo, un disco importante, un disco di esordio, un disco importante, un disco fondamentale, come ci si è arrivati a un disco di esordio? Ci siamo arrivati con molta sofferenza in senso positivo, con tanta sofferenza, con tante prove, tanti concerti, ecco, perché... con tanti concerti, con tante prove, questa è una cosa molto positiva, tanti litigi non mi sembra stasera siete una perfetta unione, secondo abbiamo me. Litigato talmente tanto. Ma che non sappiamo più cosa dirci, per i pezzi da scrivere, da fare, sì, perché eravamo tutti motivati, allora penso che il risultato si sia visto, insomma. Sì, poi quando si fa un disco non si sanno le canzoni da inserire, bisogna fare le grafiche, il video, decidere i pezzi, per cui lo studio, ci sono varie cose, lo studio, tante altre cose. Poi avete inserito delle cose molto interessanti, delle cover come Il vino di Piero Ciampi, avete inserito una cover difficile, complicata, complessa, importante. Eh sì, perché come il punk era nelle nostre origini, così anche il cantautorato, perché ad esempio quando eravamo ragazzini, ma proprio 15 anni, io e Federico avevamo già una piccola band, e ascoltavamo già, non so perché, ascoltavamo De André, Tenco, cantautori così, non lo so. Perché? Mentre non facevamo so. Punk. Beh, insomma, può allora, anche essere. C'è rimasto quel gusto lì un po' del cantautorato esiste. E per cui conoscevamo, essendo anche degli adolescenti, mentre ascoltavamo quei cantautori, eravamo anche un po' appassionati alle chicche, no? Anche Piero Ciampi è un po'... È una chicca, cioè... praticamente era considerato una chicca, cioè lo ascoltavano in pochi, finalmente sì, poi Nada nella nostra generazione almeno, sicuramente sì. Poi Nada finalmente l'ha sdoganato e ha dato una visione a un cantautore che doveva essere sentito, perché era un grande cantautore, un po' strano, cioè un po' fuori dell'ambiente, volutamente fuori dell'ambiente, però deve essere assolutamente ascoltato. Però sì, era un bel pezzo e appunto Dino è un grande pezzo, e poi aveva questo ritmo un po' russo, la Serena era con noi, abbiamo provato, perfetto, andava benissimo. Agostino, cosa dici? Cominciamo? Io sono pronto, possiamo rompere il ghiaccio. Hanno scelto la traccia numero 7, cioè Il vino, proprio quella di... quello di Piero Ciampi. Allora, adesso lo sentiamo e poi parliamo, perché questo avvicinamento alla lingua russa. Adesso parliamo con la protagonista di questo, ok? L'ascoltiamo. Thank you. красивое вино, красное, красное, красное, утро белое, я в Канаде, и в грязной воде я люблю эти звезды. Это жизнь короткая, это написано в душе. Bello il vino rosso, rosso, rosso, bianco è il mattino e sono dentro a un fosso e in mezzo all'acqua sporca godo queste stelle. Questa vita è corta, è scritto sulla pelle. Bello vino, il vino, красное, красное, bianco, красное, bianco, bianco, утро белое, rosso il mattino, я e sento male un fianco, vita, vita, vita, я люблю эти звезды, sera dopo sera. Tra le dita e spera, mira e spera. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, allora abbiamo aperto, come si suol dire, le danze con questa traccia numero 7 dal titolo Il Vino di questo disco che si chiama Canzoni dal Fosso. Mi viene spontaneo chiedervi perché questo titolo di questo disco. Io sono curiosissimo, fossi poi non ce ne sono neanche più, sono tutti coperti dal cemento quasi. Da chi è nata questa idea di questo titolo? Vai, vai, vai, parla, parla, parla pure. Beh, l'avevo proposta, sono Francesco, chitarra classica, l'avevo proposta un po' io perché uno dei nostri pezzi più apprezzati era appunto quello che abbiamo appena ascoltato, Il Vino di Piero Ciampi, e in questo pezzo dice bianco il mattino, sono dentro un fosso, in mezzo all'acqua sporca, godo queste stelle. Allora era, mi piaceva l'idea di questo, questo cantautore, cantante che in mezzo all'acqua sporca del fosso cantava, e quindi la musica, le canzoni uscivano dal fosso, che sono un po'... C'è stata discussione per coverizzare Ciampi, visto che tu hai parlato di litigi, oppure no? No, no, assolutamente no, perché l'abbiamo obbligata. Ah, l'avete obbligata. No, dai. È stato difficile riproporla in musica con l'inserimento del russo, sto pezzo, oppure no? No, in realtà io l'avevo registrata a casa così per sfizio, così con la chitarra classica. Lei ha iniziato a cantarci sopra in russo, in sala prove, sì, ancora. Sì. Così io ha realtà... sentito la melodia. Ed Eros, sì, quello che ci apriva la sala prove, appunto dico come risonori, ci ha detto: ma senti che bene che viene, è il vino di Piero Ciampi, e abbiamo deciso di tenerla. Avete fatto, sì, bene, sì, sì, siete stati bravissimi. Molto bene. Ripeto, è difficile trovare adesso un po' meno, ma una volta era difficile trovare dei musicisti emergenti che coverizzano, che prendono spunto da Piero Ciampi. E anche dei Fossi. E anche dei Fossi, esattamente. Ok, bene, siamo pronti per fare qualcosa di fondamentale, vero Agostino? Già subito? Sì, suoniamo chiaramente. Volete suonare subito? Volete suonare? Sì. Non sono pronto. Certo, mi pare giusto. Sono le 22:16. Casualmente hanno degli strumenti. Casualmente, sì. Mm-hmm. Poi ho visto un bellissimo violino. Sì, andate. Sì, esatto, ma ci stiamo. Siamo in sette, cari ascoltatori. Ci dobbiamo un po' allargare. Ci dobbiamo stare adesso. Lo stesso. Caro, sei a posto? Sei a posto, violino? Ci sono. Okay. No, provalo ancora il violino. Sì, ok. Allora, abbiamo un violino, una fisarmonica. Poi abbiamo una chitarra classica e le voci. Che esatto. Cosa suoniamo? Questa è Angelina. Angelina, molto bene. Io ci sono. Sì. Ti do il 4. Zappa è un aratro per fare il mestiere, una zolla di terra appena mossa. Il tempo che volevi dedicare all'amore lo passi sotto il sole a romperti le ossa. Ma quanta è la gioia nel veder come spunta da un seme a un germoglio una pannocchia di grano. Da quando il sole nasce a quando tramonta, per ingannare il tempo si lavora e si canta. Angelina, e si beve a morire. Angelina, mi te voglio sposare. I tuoi begli occhi li vedo ogni momento, ne basta se pensarli per essere contento. Di vendemmia, è tempo di uva buona. Tra i lunghi filari, i grappi d'oro fitti sembrano appesi lì dal Signore in persona. Ci sono anni scarsi, ma questo dà i suoi frutti. Tra poco sarà sera, tra i campi fioriti, e l'uva è nelle ceste, e festa si farà. Stanco ma felice, abbandona le sue viti e nel ritornare a casa col sorriso canterà. Angelina, per si bel da morire. Angelina, mi te voglio sposare. I tuoi begli occhi li vedo ogni momento, me basta solo pensarli per essere contento. Sei. Bellissima Angelina, questa commistione col dialetto, poi alla fine dentro il pezzo, nella parte centrale c'è il dialetto. Una cosa volevo sottolineare, la chitarra quasi zigana da parte di Francesco, sì. E poi alla fine hai fatto un arpeggio classico e il violino di Lorenza che dava il là a tutto, più la fisarmonica, dava il là a tutto il pezzo che ha questa tendenza popolare. Perché il popolare, la musica popolare, il dialetto nella parte centrale finale del pezzo, caro bassista? Cara voce, scusa, cara voce, meglio così. Beh, diciamo che ritornello in dialetto l'ho voluto. Hai voluto te? L'ho voluto io. Sì. Come mai hai voluto il ritornello in dialetto? Perché ti sembrava bene così. Mi piaceva l'idea di far qualcosa. La commistione tra il dialetto e l'italiano. Sì, comunque, sì, di dare un. Anche un po' di valore alla nostra, alla nostra terra. Insomma. Certo, è giusto che sia così. Non mi sembrava sbagliato. No, perfettamente. Magari ci sono dei gruppi che si vergognano, non lo so, di mettere cose in dialetto, che sono un po' da campagnoli, eccetera. Noi, alla fine, Fossi, appunto. Campagna, dialetto, siamo così. Musicalmente è un po'... Abbiamo parlato del discorso stasera dal vivo, Francesco l'ha fatta in una certa maniera. C'è un po' di compact folk in questo pezzo, non so se sei d'accordo, Francesco. Sì, sì, sicuramente ci ispiriamo anche a gruppi come ad esempio la banda Bordeaux. Esatto, soprattutto la banda Bordeaux. Sì, la chitarra, cioè, l'inizio era molto veloce, aveva qualcosa della banda Bordeaux. Sì, me. Sinceramente, se io come chitarrista dei Daushasha dovessi dire a chi mi ispiro, cioè principalmente banda Bordeaux per le parti punto di riferimento, combat folk e De André per gli arpeggi. Chiaro. Dopo sicuramente li faccio peggio di loro, però ognuno fa quello però, che può. L'ispirazione parte praticamente. Sì. Cosa ne dici? Bel pezzo, vero, caro Agostino? Sì, a me è piaciuto tutto il disco, se devo essere sincero. Decisamente molto interessante. Perché io, mentre ti aspettavo... Sì, giustamente, mentre mi aspettavi, giustamente. E loro se ne erano andati a rifocillarsi un po', io mi sono preso qui, mi sono messo ad ascoltare un po' il disco. Proprio di campagna, di popolare. E già ieri sera avevo... Sì, esatto, già ieri sera avevo messo qualcosa anche nella mia bacheca di Facebook, cioè la campagna avevo messo. E sono andati a rifocillarsi, è proprio bello anche qualcosa di genuino, vero? Sì, sì, sì. Vi siete rifucillati in pane soppressa, Maurizio. Esattamente. Esatto, pane soppressa e vin rosso. E vin rosso, assolutamente quello. Voi di dove siete esattamente della provincia di Treviso? O siete sparsi? Noi siamo zona Trebasele, che Loreggia. Siamo Padova. In realtà siamo tutti della provincia di Padova. Si vede che mi sono sbagliato io a scrivere qualcosa. Siamo vicini comunque, siamo vicini. Io sono di Cadone, che quindi sono... Ma è confini, per cui... Avete presente quando tipo qui a Padova dicono sei proprio... Proprio di Trebasele, che per dire sei del Bronx. Esatto, sì. Siamo fuori. Ancora dopo Trebasele, che è proprio su. Quindi ancora più del Bronx. Io e il cantante siamo di Levada, che è proprio l'ultimissima frazione. Piccolo paese, piccolino proprio. Sì, sì, sì. Ancora... Cioè, no, scherzo. Un'altra curiosità che mi voglio togliere, perché sono molto curioso, il nome. Ecco. C'era qualcuno, chi l'ha inventato? Qui lo dice la Serena. Qui c'era, tocca a me. Serena, tocca a te. C'era qualcuno che prima mi ha detto che c'è tutto un aneddoto, una storia sotto lunga da spiegare. Sì, molto lunga. Hai tutto il tempo che vuoi. Allora, avevamo ancora la prima formazione, per cui io, Federico, Simone, Daniele e Cico, Francesco. E niente, stavamo provando in sala prove. E mentre suonavamo, Francesco si rivolge a me, ma io non ho capito niente, perché insomma suonando non... Perché aveva il volume troppo alto, io le ho detto sbassa in dialetto. E lui mi fa appunto sbassa, ma io non avevo proprio capito niente. Usciamo dalla sala prove e gli dico: ma Francesco, cosa mi hai detto? Daushasha, una cosa del genere. E all'epoca dovevamo trovare il nome, appunto, perché stavamo per suonare prima dei Tre Ragazzi Morti. E abbiamo scelto, abbiamo ottenuto. Non abbiamo dormito per 2 settimane per trovare il nome, e alla fine è andata bene. Come alternativa c'era il Circo delle Marmotte. E poi meglio questo che il Circo delle altri Marmotte. Nomi, c'erano altri nomi che girava? Oddio, non mi ricordo. Non so mi ricordo. Che abbiamo litigato tanto anche per questo. Anche per questo. Sì, abbiamo iniziato da quello. Ci siamo scervellati un sacco, ma alla fine così per caso. Ma Agostino mi insegna, il nome della band è fondamentale poi, perché identifica la band, certo. C'è poco da fare, vero Agostino? Certo, è assolutamente fondamentale, quello deve rimanere, non ci le litigate no, certo. Deve rimanere sempre quello, non esatto. Si può cambiare, è come il programma radio, non si cambia mai. Mi viene in mente, Maurizio, se ti ricordi il gruppo romano di Elena, ti ricordi? Sì. Che hanno preso spunto dalla luce della mitologia, sì. Ma che anche loro volevano fare i bigliettini, poi è stato fuori questa cosa, è nata sì, così. Sì. È nata per caso, spesso capita, dimmi. Tutte le cose giuste capitano per caso. Hai ragione. Non la musica che avete fatto voi. Viva! Un applauso totale. No, perché col libro sotto con la cara. Per quello. Lui parla poco, ma dice cose profonde. Perfette, profonde, sì. Sentite, facciamo ascoltare ancora un pezzo? Certo. Allora, avete scelto Taranta. Chi è che ci racconta un po'? La Lorenza, l'autrice super di questo super pezzo. L'hai scritta a te questo pezzo? Sì, Taranta è un pezzo che ho scritto io, è un pezzo strumentale. Esattamente, strumentale, sì. Ti sei ispirata alla Taranta? Mi sono ispirata sempre alla tradizione. Mm. Sono rimasta alla tradizione strumentale italiana meridionale. Certo. Il mio intento era quello di far ballare la gente, volevo proprio che la gente si scatenasse, quindi ho pensato alla Taranta come... Che è una danza praticamente. È una danza che appunto, secondo la tradizione, veniva ballata da coloro che venivano punti dalla Taranta. Tarantolati. Perché proprio non riuscivano a star fermi. Esatto. E quindi ho creato questa melodia che mi è venuta quasi per magia, perché è il primo pezzo che ho scritto mai, quindi... E ti è venuta bene. A me piace. Ti sei ispirata a qualche suono che già sentivi? No, ha un ritmo terzinato ed è venuta. Quanto difficile ti è per te suonare il violino? O quanto tempo è che lo studi, quantomeno? Sono tanti anni che lo studio, non si finirà mai di studiarlo, immagino. Per cui sì, è difficile, però a un certo punto diventa piacevole, soprattutto suonarlo insieme agli altri. Da sola mi annoio ormai, basta, voglio suonare con gli altri. Benissimo, l'ascoltiamo, Taranta. Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Cara Lorenza, voglio sapere una cosa. Tu hai scritto la partitura di violino, poi il resto degli strumenti sono girati intorno al violino, è così? Sì, io ho scritto la parte melodica del violino come se qualcuno scrivesse la parte cantata di una canzone, proprio l'ho immaginata così. Ho messo giù qualche accordo, poi mi sono fatta aiutare da Francesco perché non sono proprio un artista negli accordi. Francesco ha messo gli altri, ha concluso, ha tirato il cerchio, ha chiuso sì, il cerchio. Sì, poi ognuno diciamo, ha messo la sua. Ci sono state discussioni su questo? No, assolutamente, abbiamo... No, non litigi. Perché gli accordi erano... il violino proprio chiamava quegli accordi. Sì, cioè. Erano... Non ci sono stati litigi assolutamente. Non ho usato. Dimmi. No, ma i litigi non sono nati, non sono mai sorti per cause musicali. Musicali, no, ah, mai. Extra. Assolutamente, per il look. Ah, per il look, perché come vi vestite quando suonate? Ma allora, siamo in sette, siamo in tanti con sette stili completamente diversi. Andrebbe bene uno stile solo. Esatto. E quindi abbiamo chiamato una persona al di fuori di tutto per scegliere una linea. No. No. No, Anna, che salutiamo, è la ragazza che ha girato il video. Ciao, ah, bene. Ciao Anna. Ciao, quello, lei ha scelto uno stile. Lei ha scelto, sì, ci ha aiutato a scegliere diciamo un abbigliamento consono sia al palco sia alle foto del CD del, insomma, è giusto secondo me, una bella idea questa. Esatto, sì, sì, sì. Anche sì, perché era da una vita che continuavamo a provare a vestirci e questa volta no, tu non vai bene. La volta dopo sì, tu vai bene, però tu hai cambiato, non va più bene. E non andavamo più fuori. Ma anche il look è importante sicuramente. Ah sì, alla fine molto. Sì. Vedi. Ma vi presentate come siete messi qua sulla copertina? Sì, all'incirca, sì. Io dai, non proprio. Un po' più allegri, dai. Sì. Anche con la vespetta così. E la vespetta? No, la vespetta no, non potete nominarla perché devo ancora rifare l'assicurazione. Ok, abbiamo capito. No, ce l'avevo anch'io. La Vespa in copertina. Ce l'avevo anch'io, bellissimo. È un mito. Esattamente, Vespa 50 una volta, anche qualcun altro. Ecco. Vedo che non vi manca anche il fiasco di vino, Eh no, è vuoto comunque. È vuoto quello. Beh, anche, vuoto. Anche perché per chi ascoltasse il CD, insomma, c'è un buon richiamo. Sì, effettivamente. Però è strano vedere che ragazzi così giovani, insomma, abbiano scelto questa linea musicale da proporre, insomma. Sembra quasi tornare indietro un po', musica retro, insomma, degli anni 30-40, per dire, insomma. È bello sapere che fate questo genere di musica, insomma. Non è da tutti. No, beh, ma all'inizio magari non era proprio quello l'intento. Cioè, noi abbiamo cominciato come... Sì, come dicevate prima, insomma. Esatto. Eravate panchettari. Panchettari. Sì, panchettari. Sì. Poi un po' alla volta... provi, dici beh ma qua ci starebbe bene. Mi ricordo quando abbiamo registrato il primo demo, lui sì. Ha suonato la Francesco cosa ha detto? L'abbiamo suonata in tre la fisarmonica, sì. Perché nessuno era in grado di suonarla. Avevo una vecchia fisarmonica di mio papà, io sapevo suonare la parte del piano, certo. E i bassi no. Il problema è che poi questa fisarmonica sfiatava, no, non riusciva a suonare bene. Allora avevo bisogno di uno che la tenesse ferma. Però, perché sennò il microfono da studio prendeva il suono prima più alto, poi più basso, e un altro che muovesse il mantice. Allora io suonavo, Daniele muoveva il mantice da buon batterista e Fede teneva ferma la fisarmonica. È la prima volta che sento una cosa di questo genere, sono molto soddisfatto di averla sentita in ogni caso. Interessantissima, tra l'altro. Molto interessante. Si suona... E poi da lì abbiamo detto, chiaro, ma forse sì. Avendo una persona che suona davvero la fisarmonica... Avete trovato poi la persona. Con una fisarmonica vera. Esatto. Sì, e tra l'altro io ho dovuto imparare la parte da quella registrazione con la fisarmonica di È un po' complicata, Cico. Vero? Sì. Beh, è stato interessante perché la gente non può capire, non può sentire, non può vedere. È difficile fare un pezzo con degli strumenti un po' particolari come la fisarmonica suonata in tre praticamente. Non è così Beh sì, quel pezzo è un po' stato il pezzo... Era un demo, un pezzo da un demo, dici? Sì, no? che conteneva due canzoni che abbiamo messo anche in Canzoni dal Fosso. L'avete rifatto? Rifatte oppure no? Rifatte, perché ad esempio La Contrada dei Papaveri che suoneremo... Che è il pezzo che abbiamo scelto noi, eccetera, eccetera. Sì, e adesso suona come un pezzo un po', un po' alla De André, un po' sì. Più folk moderno. E all'epoca iniziava con delle belle chitarre distorte e la fisarmonica sopra, cioè suonava quasi folk metal. E come mai chi ha voluto questo passaggio al folk di André? No, banda Bardot, come mai? No, diciamo che il metal, cioè il metal, le chitarre metal, distorte, dire, beh quel demo era un po'... Un po' distorto. Era molto distorto. E perché avete abbandonato i Pogues distorti per abbracciare... La banda, cioè abbracciare il folk vostro. No, cioè non è che abbiamo. Era proprio che eravamo alle prime esperienze, no? Allora magari per dare un po' di più tiro alle chitarre metti il distorto. Certo. Ma magari non è quella la soluzione migliore, magari tira di più una chitarra classica, però con la batteria più. E allora ci siamo un po' evoluti. Abbiamo sempre siamo ancora sperimentando. Giusto. È tutta una sperimentazione, un crescere di continuo. Stiamo facendo il disco nuovo con cose golose. Ah, interessante, molto interessante. Che poi anche dimmi. Raja, che probabilmente l'ascolteremo dopo. Sì, sicuramente. Certo. Cioè, quella è una canzone dove ci sono chitarre distorte. È vero, ma per quello ho tirato fuori il discorso del distorto. Perché, come abbiamo detto all'inizio, un grande amore non si scorda mai, c'è sempre fuori, viene sempre fuori. E in effetti, quella è stata una delle ultime canzoni che abbiamo scritto per l'album Canzoni del Fosso. Quindi c'è un ritorno al passato. E l'abbiamo voluto mettere proprio adesso. Dobbiamo fare una canzone che spacca. Perché noi sogniamo, cioè, alla fine. Uno dei nostri fini principali è quello di far ballare la gente, di divertirci ai concerti e comunque di fare un concerto che non tranquillo, di fare un concerto di rumore rock. Sì, rumore tra virgolette, sì, insomma. Potente. Sì, un compact, sì, compact folk, dai, possiamo dire questo. Qualcuno vi ha paragonato, vi ha avvicinato i Modena City Ramblers, anche sì, quelli. Sì, i Modena City Ramblers, però non all'inizio che facevano musica come ama assolutamente Agostino, musica irlandese. Mm-hmm. Poi hanno dato più vigore al discorso. Sì, ad esempio, adesso non li conosco benissimo, però conosco i 100 passi, che è un pezzo anche quello con le chitarre distorte, folk, flautino. È importante, un pezzo molto importante, i 100 passi, assolutamente. Bene, cosa facciamo? Facciamo un altro pezzo adesso? Sì, dal disco. Dal disco, non dal vivo. Come volete voi. Come volete? Cosa volete fare? Siccome non ne hanno tantissimi. Pensavo. Quando la gente viene qua, le band vengono qua, voi non ci conoscete, meno non conoscete già me. Detto. Ah, ecco, perfetto. No, poi diglielo. Io spingo assolutamente a rovinare tutte le scalette, assolutamente, yeah. Perché le scalette si fanno tutte dal vivo in genere. Quello è una band che suona dal vivo è un'altra cosa, cari ragazzi. Lo so. Il problema è che in realtà, mancando basso, mancando elettrica, mancando batteria, lo so, è un po' complicato. Far rendere queste canzoni magari anche un po' più difficile. Poi, insomma, quindi avete scelto la base ritmica, una mediazione. Sì, mediamo. Dai. Mediamo, dai. Cosa mediamo? Cosa adesso? Cosa sentiamo? Cosa la c'è campagna. Abbiamo la campagna. La campagna che è quella. Beh, magari prima facciamo cantare la Serena, facciamo un live. Come volete. Poi magari non lo so. No, fate voi. Fate Serena, voi. Cosa vuoi fare? Vuoi cantare? Vai, facciamo Oci Giorni. Rinominata da noi Oci Storni. Perfetto. È una. Una traduzione dal russo. Quindi ci fate qualcosa dal vivo adesso? Sì. Perfetto. Scusa sempre. Sì, adesso ci mettiamo a posto. Siamo in sette, quindi dobbiamo mettersi a posto. Siete pronti? Sì. Ok. Очі чорні, очі страстні, очі жгучі і прекрасні. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Траур вас по душе моей, вижу пламя вас, я победная, сожжено на нем сердце бедное. Жалея, утешите нам, не судьба моя, все, что лучшего в жизни Бог нам дал, жертву отдал я огневым глазам. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, от увидел вас я не в добрый час. Maurizio, abbiamo direttamente dalla steppa russa, assolutamente. Direttamente. Mi viene in mente Max Dmitriev, te lo ricordi? Sì, esatto, però cantava in inglese. Voi non sapete quante volte si è ubriacata Serena con la vodka per cantare questa canzone. Sì. Tante. Sì, perché giustamente diceva Agostino, ha citato questo musicista che è venuto a trovarci, però cantava in inglese, era russo ma cantava in inglese. Poi siete italiani, di Treviso o di Padova, provincia, facciamo, e cantate in russo, è una bella cosa questa. Sì. Dalla steppa di Trebaseli. Dalla steppa di Trebaseli. Ma questo è solo un inizio o le farete altre canzoni cantate in russo? Oddio, io sinceramente vorrei concentrarmi anche sull'italiano. Certo. Perché allora l'ispirazione. Ma noi la obbligheremo a fare ancora. No, va bene, ok. Cioè, finché è la novità, ok. Però, insomma, sono italiano e vorrei anche cantare in italiano. Però comunque le tematiche restano un po' così, un po' dall'Europa orientale. Ma hai anche la conoscenza della musica russa te o... Ma sinceramente... Ascolti qualcosa, voglio dire. Sì, no, qualcosina sì. Fra poco adesso dovrò fare ricerca per la tesi e probabilmente la farò sui cantatori degli anni 60 russi. Chi sono i cantatori degli anni 60 russi? Sovietici. Bulat Akhujava, Vysotsky, eccetera, eccetera. Ne Galic. Conoscessi uno, Sì. Ce n'è uno forse che conosco, quello più famoso. Chi è? Dimmelo te. Il più famoso è Galic o Vysotsky. Quello lo conosco. No, non è che conosco. Quello da Casa Corba. Dimmi. Quello da Casa Corba. Ah, ecco appunto. No, quello lo conosco per altre vie traverse praticamente, però lo conosco, ho letto qualcosa di lui. Sì, beh certo. Comunque adesso ho scritto anche un altro pezzo che speriamo di, non so, aggiungere al prossimo album. E sì, diciamo mi sono ispirata ad un poemetto di Pushkin, che è il più grande poeta russo, insomma, certo. Sì. E niente, le tematiche sono quelle, però l'ho scritto in italiano questa volta. Scusami, Occicioni si pronuncia così? Occicioni, sì. E dal vivo come lo fate? Lo fate come avete fatto qua o con tutta la strumentazione elettrica? O allora, no? Allora, aggiungiamo la basso. Base ritmica, chiaro, basso e una batteria ben lanciata, il nostro batterista che non... Batteria. No. Senza batteria non ti fanno lavorare mai, dai. No, lo faccio io con il cimbalo. Ah, fai te col cimbalo, bene. Il basso. Che quello è fondamentale. Che in questa ci vuole, è molto si importante. Sente che manca. Esattamente. E quindi fate muovere la gente con questo pezzo, assolutamente. Sì, avete fatto muovere anche noi. La gente, io e Agostino, più quelli che ci stanno ascoltando stasera. Col battito delle mani, cari ascoltatori, hanno cominciato a battere le mani ritmicamente a tempo. Abbiamo lasciato a casa il cimbalo. Bene. No, dovevi dire che abbiamo portato le mani, no? Che abbiamo portato, vero, abbiamo portato quelle. Guardiamo le cose da un'altra prospettiva. Va bene. Vai Agostino. No, dicevo, facciamo ascoltare qualcosa ancora dal disco, visto che abbiamo tantissime canzoni da far sentire, quindi è giusto proporre la musica dei Daushasha. E poi hai detto il ricordino delle 11? No, non l'ho detto, ma lo facciamo dopo. Lo facciamo dopo. Facciamo un ricordino, un giochino ricordino. Non sono ancora le 23. Non sono ancora 23, ma è un quarto d'ora, ma si fa presto arrivare alle 23. Sì. State attenti. Adesso andiamo in campagna. State attenti. Allora, va bene. Sì, ho questo singolo video, questa, sì. Questo video... Questo video è stato anche questo un motivo per confrontarci, diciamo. Bene, è stato sofferto. Comunque, e morire di fame. Sì. Perché come mai il discorso di morire di fame? Non abbiamo potuto mangiare direttamente dal troppo lavoro per fare. Quante ore di digiuno praticamente? No, beh, in realtà abbiamo fatto 2 giorni di riprese. Però il primo giorno era un po' complicato perché un po' Lorenzo capisci la luce, mettiti qua, tu fai là, tu fai quello, manca questo e quello. Quindi non c'era tempo di mangiare. No, ci abbiamo provato però. E poi Luca era a maniche corte i primi di marzo alle 8-9 di mattina. È un po' freschino. Per le serate che facciamo noi, dopo la mattina dopo siamo carichi, però mancava. Dalle nostre parti fa un po' freddo. Dove l'avete registrato questo video? L'abbiamo registrato a Levada di Piombino Dese, che insomma... Quindi, casa nostra è in una casa abbandonata vicino alla villa Marcello, che è una villa, non è palladiana, però di quegli anni, molto bella. E i panni stesi di chi sono? Di una signora di cui non posso fare il nome perché... Non era molto contenta? No, perché ha dei problemi con la legge. Va bene, ascoltiamo La Campagna, da Ushasha, da Canzoni dal Fosso. Thank you. stamani, passeggio leggero, le vigne fresche mi guardano ed io guardo il cielo. Stamani in campagna c'è il sole, su dai andiamo a prendere il vino e facciamo una festa fino al mattino. Tanto i fossi ci accoglieranno e le rane con noi canteranno, e se tu non verrai io farò festa lo stesso, e se tu non verrai il vino io lo bevo con lei. Stamani per le vie del paese vecchi in bicicletta se ne vanno al cimitero. Stamani la campagna sa di pesca, sarà che Francesca ieri sera mi ha baciato con quelle sue labbra, ed oggi tutto il paese sembra sapere di lei. Stamani un pavone canta, lo so che sei stanca dei miei occhi tristi. Eh sì, perché gli occhi di Antonio sono molto più forti dei miei. Antonio è un uomo più serio e forse mi lascerai. E se tu non verrai io farò festa lo stesso, e se tu non verrai il vino io lo bevo con lei. Olè! Sera, la campagna è stupenda, i miei amici ridono e le lucciole ballano. Stasera Francesca mi guarda, sarà che la grappa è andata finita e la tavola è ancora imbandita. Stasera la campagna è stupenda, l'ultima paglia tra le mie dita. E quando tra 50 anni le rughe solcheranno il tuo viso, tu sarai proprio un gran cesso, ma la campagna sarà bella lo stesso. E quando tra 50 anni le rughe solcheranno il tuo viso, un gran cesso, ma la campagna sarà bella lo stesso. Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, cari ascoltatori, mentre il pezzo andava, Francesco mi ha detto della stesura un po' complicata di questo pezzo, come era nato e come si è sviluppato e come effettivamente è stato inciso. Adesso me lo puoi raccontare, raccontiamo a tutti i nostri ascoltatori. Ok, beh, la stesura in realtà non è stata tanto complicata, perché ero a casa una sera d'estate, ho detto vabbè, scrivo una canzone, non ho nient'altro da fare, vabbè. Bene, positivo, non fa niente altro da fare, scrivere una canzone. Sì, no, infatti. No, niente... E dato che avevamo già intrapreso una via un po' campagnola con, sì, il Da Usciascia, avevo pensato di scrivere una canzone in cui ci fossero tutte le cose che mi emozionano nella campagna. Tu pensavi a Modugno praticamente. Sì, pensavo a Modugno e pensavo di dipingere un quadretto proprio di un messo a fuoco proprio al massimo di un paese piccolo, no? E non lo so, avevo in testa un po' questo spirito da Modugno, tipo in un calcio alla città dice andiamo in campagna a raccogliere le margherite, non lo so, uno spirito, un'atmosfera avevo in testa più che altro. Ed era nata un po' come una canzone però più simpatica, tipo quella anni 60, se tu non verrai il vino lo bevo con lei, cioè era una roba un po' simpatica. Dopo, suonandola in sala prove, le abbiamo dato uno spirito un po' più serio, cioè senza volerlo, e ci piaceva, è rimasto un po' così, però il testo forse sopra stride un po' a questa musica un po' seria, però è anche cioè una cosa particolare, non volevamo appunto buttare proprio alle ortiche il pezzo praticamente. Sì, l'hai ripreso, l'hai ricostruito. L'abbiamo ricostruito. Ricordo un po' forse Che me ne importa a me di Modugno, sì, che parla sempre di un'altra, di questi amori a tre che sono belli da raccontare, no? Certamente. E poi la fisarmonica di Giorgia, come è lei che ha spinto in questo pseudo valzer, oppure no? Sei... No, no, il riff di chitarra era sempre lo stesso. Un valzer. Volevamo appunto raccontare fare un piccolo quadretto del nostro paese, i vecchi in bicicletta, le campane, i ricordi della mattina, della serata prima. La cosa un po' simpatica è che tanti mi hanno chiesto: ma perché alla fine avete messo il verso del tu sarai proprio un gran cesso ma la campagna sarà bella lo stesso? Perché il personaggio si evolve durante la giornata, durante la canzone, tipo come quelli dei testi seri, no? Che all'inizio è una persona, poi si evolve, alla fine è un'altra persona, e questo si evolve a seconda di quanto beve. Chiaro. Perché alla mattina pensa alla ragazza della sera prima, al pomeriggio beve un po' e dice sì ma forse lei, ora Spritz dice sì ma forse questa, no vabbè, a fine serata che guarda la campagna dice sì vabbè, che me ne importa la ragazza, mi piace la campagna, la ragazza fra 10 anni magari non è neanche più bella. Così per spiegarsi, no? Perché tanti ce l'hanno chiesto. Sì, bene, bene, benissimo. Io sono indifferente. Eccola qui. Ecco, Agostino l'ha pescato. Ha pescato Squid Modulo. Eccola qua. Che me ne importa. Tu ti sei ispirata a questa canzone qua? No, io in realtà all'epoca di Modugno conoscevo le canzoni un po' più famose, cosa sono le nuvole, però avevo ascoltato varie cose. Mi era rimasta in mente questa. Storia, poi questo giro. Tipo, andiamo in campagna a raccogliere le margherite. Allora avevo in testa lo spirito del mio paese, l'atmosfera, più Modugno. Ho fatto un po' un casino, però va bene lo stesso. è uscito questo pezzo. Giorgia, volevo sapere da te invece quanto è difficile per te suonare la fisarmonica. Anche perché, sinceramente, è strano vedere una femmina che suona. No, dai. No, sinceramente lo vedo più uno strumento maschile, senza voler essere denigratore, ovviamente, insomma, nei confronti vostri, donne. Certo, no, ma in realtà io ho conosciuto più studentesse di fisarmonica che studenti. Ah, sì? Di fisarmonica. Sì, beh, al conservatorio siamo in 7 donne. Su sì, 800 sì. Maschi. 6-7. No, in realtà, beh, un numero abbastanza pari, diciamo. Conservatorio. Però... di dove? Castelfranco. Castelfranco. Saluto il mio maestro Ivano, ciao. No, è difficile la fisarmonica, soprattutto perché io ho iniziato tardi, ho iniziato a 25 anni, quindi suono da 3 anni e mezzo. Così 4. Sappiamo quanti anni no, hai. No, hai detto la stessa. Quanti anni ha la Giorgia? Tutti che conta. Vabbè, sono ancora giovane, dai. Hai fatto una battuta, Dimmi. No, è difficile soprattutto perché non sapendo leggere la musica tanto bene. Come i batteristi. Esatto, io vado tutto a memoria. Adesso il batterista deve dire una cosa. Dimmi. Io so leggere la musica. Ah, ecco. E quindi è abbastanza difficile. Però mi dà molta soddisfazione. È uno strumento fantastico. Beh, immagino se tu non suoni. Certo. Ti è difficoltoso comunque farlo, no? Allora, dipende dai pezzi. Pezzi classici, sì, è abbastanza difficile. Ci dedichi quanto tempo? Ora che lavoro purtroppo poco, un'ora al giorno, se va bene. Poi durante il weekend Ti scateni. Sì, sì, e anche con loro in sala prove. Immagino. Maurizio. Sì, abbiamo parlato di fisarmonica, abbiamo parlato di violino e... Manca la chitarra. Ma poi arriviamo a tutti, insomma. Sì, una serie di strumenti interessanti. Io parto sempre dal discorso del punk, del folk un po' aggressivo. In questo disco non c'è, però in alcuni momenti ci sono le immagini. E come si può inserire un violino o una fisarmonica, caro Francesco, in un pezzo aggressivo? Che in questo disco qualcosa c'è, però ormai è stato dimenticato, il demo è stato dimenticato. C'è un nuovo indizio, una nuova via da percorrere per la vostra band. Sì, in un pezzo aggressivo, ad esempio, come può essere Raja, no? Esattamente, volevo arrivare a quello. Questo inserimento del violino, della fisarmonica, di gli strumenti non prettamente aggressivi nel senso positivo del termine? Beh, guarda, ti dico, nel nostro linguaggio tecnico i temi delle canzoni le chiamiamo le musichette. Ah, ho capito. Quindi quando noi scriviamo un foglio, vedi strofa, ritornello, musichetta. E questo cioè, è un modo un po' di pensare sempre punk, no? Come dire, qui ci metterei... Libero, possiamo dire questo? Sì. Ecco, punk vuol dire libero in questo caso. Sì, certo. Qui ci metterei un assoletto di chitarra sopra il riff di chitarra, così. Però con il violino e con la fisarmonica rende molto meglio. E poi se tipo sono Lorenza e Giorgia a comporlo, che quindi compongono una cosa più strutturata, spesso hanno i controcanti, vero? Sì. Esattamente. Quindi senti il violino che fa una cosa, la fisarmonica che ci armonizza sopra, quindi va da sé che viene fuori qualcosa di carino. Il nostro amico batterista che dice di sapere la musica, cosa ne pensa? Leggere la musica. Ah, di leggere la musica, scusa. dimmi, vai al microfono. Riguardo? Sempre riguardo... Riguardo al tuo futuro di batterista. Ma come in una band come questa la batteria è fondamentale, come il basso, sono sì, due strumenti fondamentali. Fondamentali, però ho sempre l'idea che siamo in sette a suonare. Certo, se suoniamo tutti e sette... Mettiti davanti al microfono, ecco. Se perfetto, suoniamo tutti e sette contemporaneamente viene fuori solo tanto casino e non si capisce niente. Quindi a volte capita, come abbiamo sentito prima la canzone di Serena che ha cantato in russo, che magari io non suono per lasciare più spazio agli strumenti acustici, che magari riescono a dar qualcosa di più. Ma può essere anche una... Ci può essere, faccio una ipotesi, una batteria anche acustica in alcuni momenti? Beh, io come obiettivo avrei voglia di imparare a suonare qualche percussione. Ecco, appunto, per quello. Batteria acustica, quindi leggi, si può leggere percussione. Sì, per aumentare i miei orizzonti e anche per trovare nuovi stimoli da portare anche in gruppo, magari. Giusto. Giusto. Una taranta invece fatta con la batteria va bene, fatta anche con le percussioni è ancora meglio. Suona, beh, magari meglio no, però suona diversamente. Sì, suona diversamente, ancora meglio nel senso più creativa, forse, o meno creativa, dipende dai punti di vista. Esatto. Chi è che scrive maggiormente di voi i testi? Ma siamo io, lui e lei, ma poi non io, è che... lui e lei chi sarebbe? Io che canto. No, io lo dico per la gente che ascolta a caso. Federico, Francesco, Serena, ma poi anche se arriva un testo, non so, da Simone o da Lorenza o da Giorgio. Quindi in apertura totale. Simone sì, no, perché ci mette le parolacce. Sì, Simone è un po' sì, cattivo. È un po' cattivo. No, conosco solo quelle. Perché sei prog, perché è cattivo. Perché non ha mai parlato fino adesso. Ma quando parla dice le cose toc. O parolacce. No. Parolacce no, non è mai dette, assolutamente. Dimmi. No, dicevi allora. Quindi principalmente voi tre. Sì, sì, sì. Però insomma qualsiasi persona, qualsiasi della band può scrivere. Sì, sì, non è che ci sia una legge, insomma. Un obbligo. Se lo scrive lui no, non vanno bene perché le scritte. No, no, no, ma non in quel senso. Infatti i pezzi del nostro album per adesso sono uno per ognuno di noi, tranne Lele e Simone. Sì, quindi ne ha scritto allora uno Giorgio, uno io, uno Federico, uno Sereno, uno Lorenza. Ah, ottima questa. E mancano loro due perché loro non ci mettono le parolacce. Il titolare effettivo di tutti i pezzi, ognuno scrive. Beh, di questo album siamo più io e Francesco. E Francesco. E una canzone. La scritta Serena. E la taranta Lorenza. E Lorenza, sì. Per quanto riguarda le musiche. Poi per quanto riguarda la musica è Francesco e Lorenza. E Lorenza che principalmente. Fondamentalmente, sì. Però dato che abbiamo visto che qualunque fosse l'autore o delle musiche o delle parole all'interno del gruppo, attraverso il filtro del gruppo, veniva a fare una canzone dei Daushasha. Allora abbiamo detto perché ognuno di noi non scrive un pezzo, così allarghiamo anche un po' i nostri... Sì, dopo non è difficile però mettere insieme tutti i diversi pezzi della band scritti da tante persone o beh, no? Logico che comunque non tutti i pezzi arrivano alla fine. Ah, cioè ci sono dei pezzi che poi vengono scartate se non... Beh, sì. Se non vanno non, alla in un certo fine, senso. Sì, anch'io ne ho scritti tanti, ma alla fine siamo arrivati... A questi. A questi, cioè. Cioè se c'è una specie di ma ricerca... Ma poi magari io per primo mi finito il testo, magari lo metto là, sul subito sembra una figata. Un poi filtro possiamo me dire. Me lo riascolto, me lo rileggo dopo 3-4 giorni, no, ma questo non ci sta. Cioè avete scelto quei pezzi, dopo avete filtrati tutti gli altri. Insomma. Sì, beh. Che, giustamente, per arrivare a incidere un disco dovete avere le idee chiare. Sì, quelli che funzionano in sala prove, diciamo, li portiamo fuori. Dopo sì, cerchiamo di realizzarli un po' tutti, no? Perché... dal vivo, dopo facciamo un altro pezzo, dal vivo, tutti i pezzi che avete scritto, al di là del disco, parlo li fate, mm-hmm. fate sentire, al di là degli 11 o quanti sono, non mi ricordo, 11 pezzi del disco, li fate, fate sentire altri pezzi, al di là dei 3 pezzi del demo. Beh sì, beh, suoniamo tutto il disco, poi facciamo Oci Ciorni, che è quella che abbiamo fatto, che è una, prima, che è una, un disco, cioè un pezzo che non è presente nel disco, chiaramente. Poi un'altra strumentale, una danza balcanica. E poi suoniamo, abbiamo due cover di De André che sono Volta alla carta e la ballata del Mica, che facciamo a rotazione, no? Più Volta alla carta, perché è più Volta alla carta ballabile. È molto più ballabile, ma quell'altra è un po' più difficile. E poi abbiamo Ognuno libero di Luigi Tenco, riarrangiato un po' rock and roll, diciamo. Adesso vi faccio una provocazione. Riuscite a fare un pezzo, una piccolo, un momento di un pezzo qualsiasi di Luigi Tenco che avete nel vostro, nella vostra idea musicale, nel vostro bagaglio, oppure no? Beh, possiamo accennare 10 secondi di Ognuno libero, però anche no. Accenniamo 10 secondi di Ognuno libero. Povero Luigi Tenco. Facciamo la ballata del Mica di De André. Facciamo la ballata del Mica di De André. Quello che volete voi, dai. E questo per dire che le scalette non esistono, hai capito? No, se volete facciamo 10 secondi di Ognuno libero e 10 secondi. Facciamo quello, sì, facciamo un mix fra i due. Sembra coniglio. Tutto dal vivo, eh. Tutto, è tutto in diretta. E siamo su Blu Radio. Non era preparato, quindi scusate. Appunto per quello, il bello è questo, non era preparato. Anche non l'avevamo detto prima, Ti ricordi cosa avevamo detto prima? Esattamente. Questa è una delle sorprese delle 11, non è mica finita. Mi piacciono. Ballata del Michele, o cosa vuoi fare? Facciamo 10 secondi di Ognuno è libero, come viene, viene. Ah, okay, bene. Cosa c'è di strano da guardare tanto? Forse perché noi non siamo vestiti bene, pettinati come voi. Ma se non vi piace così come siamo, non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Questa rende fatta rock, diciamo. Sì, rende fatta rock. Beh, il pezzo, il testo era molto importante. E qual era l'altra? Sì. La ballata del Michè, volevo... Ce la fate a fare 10 secondi di quella? È un po' più difficile, dici. Giorgio ha detto un po' così, dai. Proviamo. Quando hanno aperto la cella era già tardi, perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, s'è impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Io so che Michè ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. Eppure Michè non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che lo ha fatto soltanto per te. Sì, scusate, c'erano 2 mesi che non la facevamo live. Ma ti sei illuminato quando l'hai fatta? Io t'ho visto e ti sei illuminato. Mi piace un sacco. Appunto, perché ti sei proprio illuminato. Però se dovevo saperla meglio, perché veramente sono 2 mesi che non la provavo. Idem. Va bene, è andata bene lo stesso, però... Era già tardi perché... Che bella voce, Federico. Grazie. Questo è il De André più vecchio, cioè il De André iniziale, inizio di carriera. Bellissimo, un pezzo molto bello. Benissimo, sono le 23.05. Adesso c'è il secondo, la seconda sorpresa, vero, no, Agostino? No, no, io no, direi... niente, no, no, no, facciamo, no. Facciamo ascoltare una canzone, facciamo poi abbiamo parlato anche un po' troppo. Quindi facciamo ascoltare la traccia che apre il disco, questa serenata. Questa serenata russa. La serenata. Mezza russa. Mezza russa e mezza no. Sì. Serenata. Vuoi dire qualcosa o la sentiamo prima? No, dai, sentiamo. Sentiamola la prima, ok. Nella testa il ritmo rimbomba, le note incalzanti la fan vorticare. Se ci pensi viene il mal di mare, lei sembra felice ma è ubriaca oramai. Ricordo Annuccia qualche anno fa, con gli occhi pieni di sogni distillati. Chissà se a cantare era il cuore o la bocca, chissà se poi lei ricorderà. Ma quel che resta di quel triste torpore è un ritornello che suona così. Il posto, un ritornello che fa. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, mentre il pezzo andava, Daniele, il nostro batterista, ha detto una cosa molto bella che adesso, assolutamente dal vivo, ci espone. Sì, ti stavo dicendo che secondo me, e secondo anche il gruppo, questa canzone è un po' la fotografia del gruppo, perché contiene un po' tutte le nostre influenze che abbiamo. Quindi c'è il combat folk, c'è il valzerino, c'è la Serena che canta in russo, più ci sono le musichette di fisarmonica e violino, e c'è una parte più lenta. Le musichette. Esatto. Come si chiamano, Lorenza, in termini tecnico? Arrangiamenti, ecco. Siamo professionali sugli arrangiamenti. Gli arrangiamenti, ecco. Una parte più lenta e quasi cantautorale. Certo, sì. E la fioritura ultima con il combat folk che esplode da proprio l'ultima parte del, proprio dall'immagine, come giustamente tu hai detto, la fotografia esatta di tutte le influenze. Ed è sì, la traccia di apertura del disco, proprio per... Caro Francesco, mi pare Francesco, è giusto? Sì, sì, sì. Tu mi hai detto una cosa molto bella, mentre anche Daniele, oltre a Daniele, che alla fine è stato molto difficile fare l'ultima partita, cioè siete andati fuori in metronomo, com'è il discorso? Ah, ok, sì, cioè tutto il disco spieghiamo è stato... Spieghiamo a chi non capisce che cos'è il metronomo. Certo, allora... Il metronomo. Semplicemente. Aspetta. È l'agonia del batterista. È l'agonia del batterista. No, praticamente il metronomo è una macchina che scandisce il tempo in modo preciso, no? In modo preciso. E quindi se dobbiamo registrare in sette, non è che possiamo essere sempre tutti assieme. Per cui è stata registrata prima la batteria a metronomo. Poi ci ha suonato sopra il basso ascoltando la batteria. Per cui non è che siamo andati tutti assieme, ognuno è andato... Siamo andati a turni in studio. Multitraccia. E in multitraccia, mira. Quindi registrando tutti a metronomo, il pezzo è quello e tu sai che devi starci preciso sopra con il metronomo. Non è molto semplice, assolutamente. E la parte centrale che avete sentito, in cui c'era solo la Serena con me sotto la chitarra classica elettrica, e era fuori metronomo perché doveva essere più, avere un respiro più soul, non so come dirlo. E quindi dovevamo andare fuori metronomo, sennò veniva meccanicissima. Ed è stato difficilissimo farla, perché siamo trovati una sera io e lei in studio con Nicolò, che salutiamo, che mi faceva ridere finché suonavo. Lei suona l'elettrica allora? No, lei suona l'elettrica, ma in quel pezzo ho fatto io le chitarre. Ah, hai fatto te? E insomma doveva essere pulitissima, fuori metronomo, per cui dovevamo intenderci proprio perfettamente. Io non ero in serata con la chitarra classica, continuavo a fare una sbavatura alla fine del pezzo e dovevo rifarla tutta, perché non è che avessi il metronomo come punto di riferimento per fare una singola parte. Tu hai citato il fonico che vi ha dato una mano. Il fonico è stato, sì, fondamentale. Sì, che ci ha anche prodotto il CD, che è stato fondamentale. Saluto Nicolò Gasparini dell'Officina Underground, che dovrò vedere anche domani. Ha fatto un gran lavoro. Sì, ci ha aiutato molto e ci ha dato degli spunti e ci hanno prodotto il CD, per cui chi vi ha aiutato oltre... Voi eravate in sette, ma c'è stato, oltre al fonico, c'è stato qualche altro che vi ha dato un contributo? No. Beh, adesso mi viene in mente, per questo disco in sé, per la parte finale, non tanto. Mi viene in mente Eros, che era il ragazzo che ci apriva la sala prove, che ci ha indirizzati all'inizio, no? Vi apriva la sala prove, è bella questa. Sì, che lui... Ah sì, giusto, è vero, verissimo. Devo ringraziare un sacco Daniele Scarante, che è un bravissimo cantante di San Giorgio delle Pertiche, che ci ha fatto i cori in Angelina. Ah, vedi. E ce li ha anche, mi sembra che li abbia proprio scritti lui. Scritto le... Sì, quindi sì, c'è una collaborazione. E io ringrazierei anche i genitori del nostro batterista, che ci danno la possibilità di suonare e rompere le scatole una volta, due a settimana a casa sua. A casa sua del batterista? Sì. A casa tua, Daniele, c'è un posto ampio allora, personale. Sì, è una casa in costruzione che io uso, perché per poter provare devo avere una sala prove, quindi ho deciso di fare la sala prove ufficiale di Daushasha. Ah, bene, bene, bella cosa. Caro Agostino, mi dica. Cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? Facciamo quello che dobbiamo fare. Facciamo no? quello che dobbiamo fare. Questo. Dividiamo in due tronconi. Eh sì, perché sono tanti stasera. Allora, facciamo prima le donne per cavalleria. Sì, certamente. E poi gli non so siano molto contente però, sì, in questo caso. Sì, vediamo. Sorpresa. Cavalleria. Allora, è una domanda che viene fatta in tutte le trasmissioni dove ci sono le interviste, perché solamente lo scopo è quello di capire quali sono esclusivamente i vostri gusti. Siete in tantissimi stasera, perciò dobbiamo restringere. Facciamo tre dischi a testa. Comincia Lorenza con il violino, che ha parlato poco stasera. Lorenza, se vai in un'isola deserta, la classica domanda è questa: che dischi ti porteresti? Tre dischi interi. Oddio, non è facile. Dischi, vorrei Sicuramente una raccolta delle opere di Beethoven. E beh, quello senz'altro. Ci mancava Beethoven, Maurizio. Sì, sì. Ci mancava. Ci mancava. Ci mancava. E in primis. Poi mi porterei... Penso non al denaro, né all'amore al cielo di De André. Stupendo. Quindi l'antologia Spoon River, esatto. Praticamente. E poi? E poi sto pensando... vorrei... Sto pensando a qualcosa di... che possa essere... Sì, di origine balcanica, mi piace molto la musica balcanica dell'est, però non saprei identificare un CD. Un CD che ho di musica popolare balcanica. Di vari autori, allora. Sì, di vari autori. Che ascolti tranquillamente quando sei a casa. Allora. Esattamente. Dobbiamo ricordare alle altre ragazze che rispondono adesso che non si può copiare. Oh. Questo è la regola ferrea. Io volevo dire non al denaro, mi non ha rubato del cielo, però non si può la versione sono di stata Morgan. Fortunata. Tu volevi la versione di Morgan, no, quella no, versione originale. Ah, ok. Beh, anche quella di Morgan non è mica è registrata male. Meglio, cioè. Facciamo parlare Giorgia adesso. Dai, Giorgia, tocca a te. Allora, tre anche per te. Ma un CD qualsiasi dei Nirvana. Ah, bene, sei rockettara allora. Abbastanza. Bene, mi fa piacere. Poi... Non sempre i Nevermind, qualche altro. No, infatti. Qualche altro, va bene. Eccola, yeah. A proposito di Nevermind. Ok Computer di Radiohead. Di Radiohead, benissimo. Oddio. Stando un po' genere balcanico, qualcosa di Kusturica o Goran Bregovic. Benissimo. Tocca a te, Serena, adesso. È difficile. Lo so. Beh, io partirei con un CD a caso di Pink Floyd. A caso? Uno a caso. Uno così. A caso. Non saprei veramente. Non hai insomma... una scelta precisa. Uno a caso. No, è tutti, perché... Tutti vanno bene. Esattamente. Periodo post Roger Waters o con Roger Waters? Oddio, non saprei. Io ultimamente sono andata a Padova a vedermi The Wall. Cosa ti è sembrato? Mamma mia, è stata una cosa grande. Non saprei neanche come definirlo perché mi sono veramente emozionata tantissimo. Sì. Anche gli altri 46.000 erano contenti. Credo di sì. Credo di sì. E poi eccola qua. Eccola qua. L'ha messa in sottofondo Agostino. Vai, secondo. Serena. Poi non saprei, per stare legata comunque alle mie origini, diciamo, musicali, un CD misto di punk. Perché ascoltavo però interessante. Sì, ascoltavo abbastanza punk, non so. Per niente sono la chitarra elettrica. Quindi, esattamente, dai. Non può essere altrimenti. Ramones in testa, o forse no, dipende. No, dai, più Rancid. Sei duretta. Sì. Dimmi. E poi. Poi non saprei se portarmi qualcosa di Led Zeppelin oppure qualcosa di cantautorale. Quello che vuoi, te. Vabbè, De André l'hanno già detto. De André l'hanno già detto, sì. Allora portiamo i Led. A parte che, sì, dai, allora mettiamo i Led Zeppelin, dai. Eccolo. Eccola. Eccolo. Adesso tocca ai ragazzi, ai signorini, ai signori. Da chi cominciamo? Cominciamo dal bassista, va, che parla cominciamo poco. Cominciamo dal bassista, sì. Il nostro parolacce. Il nostro prode. No, non Simone. Dico parolacce. No, assolutamente. Allora, io invece scelgo un CD dei Pink Floyd. Non quale? Pink Floyd. Serena. No, devi dire un titolo. Per che non sia The Wall. Che non sia The Wall. Dark Side of the Moon. Perfetto. Ecco, giusto. Vabbè. Te non ho capito che tu scegli io, ho scelto... Quello, perché ci sono affezionato. È proprio... più vecchio di te, vedi. Lo so. Lo sai, dimmi. Poi facciamo uno degli Opeth, che è un gruppo metal prog. Va bene, vedi caso quel prog, vedi che avevo detto giusto vederti la tua immagine che era prog. Giusto, Ghost Reveries degli Opeth, allora, perché anche influenza non solo metal, ma anche di tutt'altro tipo, anche jazz, per dire. E poi ero indeciso un po', però facciamo un po' di musica indiana, che è la mia nuova passione. Ravi Shankar? O Chaurasia, dipende. Bene. Più Chaurasia, mi piace più il Bansuri. Benissimo. Un giorno suonerò anche il Bansuri. Non si sa mai. Quando i Deuchester si accorgeranno che non sono capace di suonare il basso, suonerò il Bansuri esattamente. A casa mia da solo. Daniele, tocca a te. Allora, dato che Simone ha preso Dark Side of the Moon, sì, prendo Wish You Were Here. Ok, è sempre accettato perché è un disco, certo, ufficiale dei Pink Floyd. Esatto. Poi porto un CD dei Deep Purple. Quale? Machine Head. Machine Head, benissimo. E poi l'ultimo porto Eden di Subsonica. Ah, sei bene. Proprio velocissimo, sì. Convinto. Sì. Così. Che andiamo adesso? Federico, la voce. Federico, vai Federico. Va bene. Va bene. Visto che siamo io, c'è la pausa. Io voglio De André. Ah, vuoi De André? Lo voglio assolutamente. Che cosa di De André? Che cosa? Non al denaro, non è stato già detto. Non si può fare. Bah, non saprei onestamente, perché De André ho... Tutto? Tutto. Tutto, primo, il secondo periodo, l'ultimo periodo. L'ultimo periodo forse un po' meno. Anima Salve non ti piace molto? Un po' meno. Un po' meno, per essere affossati per quello? No. No, no, no, no, perché non è nelle tue corde, forse. Forse sarà che abbiamo iniziato ad ascoltare... Cosa? Con Francesco? Jones, abbiamo iniziato. Quindi a... Quindi non è l'amore del cielo. Ma lui aveva citato anche la versione di Morga, che è molto bella, secondo me. Sì, secondo me forse è anche più bella. Poi non vorrei mai... insomma, dire... non lo so. Come, cioè, diciamo, come produzione è superiore, secondo me. Non vorrei dire una bestemmia, però. Non so se siano molto contenti i fan caniti di De André. No, ma io sono un fan. Cioè, vabbè, quello, la voce di De André è una cosa come ascoltare. Era Reverberi che aveva prodotto. Un semidio, no? Sì, ma Reverberi non è mica uno. Però De André non era contento di Non al denaro, Non all'amore del cielo, di come era venuto. Se senti, cioè, tipo La buona novella, lo ascolti ancora adesso. Che produzione, che arrangiamenti. Non ha il denaro, secondo me risente un po' di una mania un po' anni 70 di velocizzare i pezzi, no? Senti, gli arrangiamenti sono un po', adesso parlo da profano perché sono un chitarrista da spiaggia, pianista da spiaggia, da campeggio proprio. Però secondo la mia opinione, insomma, così basta. Continuiamo con il nostro cantante Federico. Sono... sempre tu, sempre. Dai, per allora De André abbiamo appurato, ok. Poi buttiamo dentro dai, Limp Bizkit. Ah, Limp Bizkit! Sì, sì, sì. Ti piace la roba duretta? Chocolate Starfish, a manetta. Sì, appunto. E poi... Dimmi. Pink Floyd no. No, li abbiamo già su quello citati. Sono sicuri. No, no, ma anche perché... Perché non sono le tue corde. Proprio... No, niente, assolutamente no. Non ci vado d'accordo. Ma non lo so, comunque qualcosa di punk. Qualcosa di punk, non so, Sex Pistols, i Clash. Quelli più, un po' più duri di Clash. Lei ha citato Bad Religion. Bad Religion, ecco, va bene. Lui è, lei ha citato i Rancid, quindi... No, no, no, niente. Bad Religion, Bad piuttosto. Sì, sì, sì. Torna a te Francesco adesso. Io sono un po' in pensiero perché cioè, ascolto veramente tutti i tipi di musica, dal metal più estremo. Ad esempio gli ultimi video che ho guardato su YouTube sono un album Domination dei Morbid Angel, che è un gruppo di metal estremo, Messuga, fanno roba così. Parte del nostro DNA, bro. Sì. Io rispetto il tuo, chiaramente. Né mio né quello di Agostino, sicuramente. Sì, perché ad esempio da proprio alle medie mi ero appassionato al metal, avevo proprio ascoltato di tutto. Poi mi sono appassionato più al cantautorato, anche ho cercato di ascoltare di tutto. Adesso c'è spazio dai Beatles, però mi sono tenuto i gruppi che mi piacevano. Quindi abbiamo citato quel disco di metal estremo. No, no, non vorrei mettere quello perché, però per dire che non so cosa mettere, dai, direi anch'io tipo mi innamoravo di tutto. Non vale suggerire, eh? Non vale suggerire. No, quel bordello non mi piacciono tanto. mi piacciono tanto. Mi innamoravo di tutto di De André, che è una raccolta. Anche tu De André. Che secondo me, sì, è stato proprio, se devo pensare al mio cantante preferito proprio in assoluto, De André. E Mi innamoravo di tutto è una raccolta molto bella. C'è anche una versione della canzone di Marinella Commina. Ah sì, certo. Poi, dai, un disco che colpisce al fisico, quindi musica... Across the Universe. No, però dei Justice. Non dei Beatles, non c'entra niente. Anche i Beatles, sì. Però così richiamo sia i Beatles che è un album di elettronica, sì. Molto che mi tira su proprio. E poi aggiungo un gruppo, non so se mettere un album dei Musica Nuda, che sono un duo, oppure Canti Bellicosi dei Cosi, che sono un gruppo di Milano che mi piace tantissimo. Metto Canti Bellicosi perché i Cosi proprio mi piacciono tanto. Bene, bene, ok. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Sono tanti. Sono tanti. Torniamo alla loro musica allora adesso. Li sentiamo tutti insieme con la traccia numero 4, e cioè Raja. Ci volete dire qualcosa? Ci abbiamo parlato del punk a proposito. Questa è la nostra traccia potente. L'ascoltiamo. Esco, cammino in fretta per la via, già vedo in piazza la sacra danza degli spritz, artisti sotto i muri e volti caldi per la festa, il ritmo della sera inonda la città. Tra 100 sguardi incontro proprio il tuo, mi voli incontro, so che il vino ti ha già presa. Se stasera vuoi ballare, se stasera voglio bere, se stasera mi vuoi amare, se stanotte so volare. Buonasera Raja, ubriacami ancora, ballando in una piazza con un sorriso viola. Buonasera Raja, voglio sbatterti ancora, birra chiara gancia tra le tue lenzuola. Del centro c'è profumo d'erba buona, sei gatti sopra un tetto, improvvisano free jazz, il tuo sguardo d'assassina mi rispecchia la tua stanza, donne sinuose che mi abbracciano in un trip. Se stasera vuoi ballare, se stasera voglio bere, se stasera mi vuoi amare, se stanotte so volare. Buonasera Raja, ubriacami ancora, ballando in una piazza con un sorriso viola. Buonasera Raja, voglio Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Aspetta. Dimmi. Aspetta. Dimmi. Ma una domanda, adesso faccio io una domanda a te. Ma i jingle delle radio da dove salta fuori? Questa è una domanda un po' particolare. Agostino, puoi rispondere a te? Sui no, lascio a te. Sì. No, sono canzoni che vengono ascoltate da vari speaker, poi c'è il ritornello, cioè c'è il refrain della musica che viene fatto un loop e viene ripetuto continuamente ed è sempre... No, ma non ho capito, sono canzoni... Canzoni, sì, sono okay. Basi, canzoni che magari c'è il pezzo... musicale, poi viene fatto tagliato, poi viene messo il pezzo che era, cioè il momento musicale più interessante per far sentire sempre la parola. È sempre una questione soggettiva, certo, cioè certo. Un gusto di chi decide di fare questi stacchetti. Tu dicevi lo stacchetto di Rockwave. No, in generale, così tante mi chiedo, ma che sì, è una commissione che decide, no, perché non è una commissione, decidiamo tutti assieme di fare questa. Sono delle proposte. Delle proposte, esattamente. È una questione molto libertaria come la vostra. Anche noi litighiamo per gli stacchetti. io personalmente no. No, sto dicendo una battuta. Sì, però certo. Cioè, bisogna sentire e poi decidere. Poi non decidiamo noi, decide chiaramente il responsabile della radio. Però un parere anche nostro, va bene. Insomma. Sì, sì, sì. Beh, e le registrate anche voi, quindi con le vostre voci? O... No, no. Ah. Sì, c'è qualcosa, sì, qualcuno registrato. Sì, non la mia sicuramente. C'è chi? C'è bravo. Qualcuno registrato anche con le nostre voci. Benvenuti all'intervista ai ragazzi di Blue Radio. Blue Radio, quali sono i tre dischi che vi portereste in Inghilterra? Maurizio, diglielo. Qua era una domanda a cui non rispondo mai. Perché? Perché così. In ogni caso, te la io posso sì. anche dire. Io mi porterei Cat Stevens. Ecco, perché è un amore mio da sempre. Un disco dei Beatles, è un disco dei Rolling, un disco dei Pink Floyd. Al di là, Cat Stevens sempre, in ogni caso, ecco, perché ecco. Cat Stevens fa parte del mio DNA, c'è niente da fare. Ognuno ha le proprie costanti, certo. Propri amori, o se no Claudio Rocchi, che se n'è andato purtroppo qualche tempo fa. Era un altro amore mio, giovanile. Rocchi l'ho sempre amato, perché Rocchi è stato il primo a fare il prog in Italia. Uno dei primi, un cantautore. Ha fatto delle cose meravigliose, tante idee. Rocky era uno che sapeva di tutto musicalmente parlando, e tante altre cose. Questi sono i miei punti fermi: Claudio Rocchi per la musica italiana e Cat Stevens per la musica inglese. Oltre i Beatles hanno, non hanno configurazione, i Beatles sono là di sopra di tutto. Sì, mi sono dimenticato di dire i Beatles, adesso li scambio perché con tutti i Beatles tre gli altri album. Chiaramente Beatles, prima Elvis Presley, perché senza Elvis non ci sarebbe stato niente. Poi Beatles e Rolling e Bob Dylan sono i pilastri fondamentali, secondo me. Poi vengono tutti gli altri. I stessi Pink Floyd vengono dei Beatles, secondo me, in alcuni momenti. Tra l'altro ho sentito che John Lennon era un super fan di Elvis. Assolutamente, e qui hai detto una cosa giusta. Elvis è, penso che Elvis abbia dato il via a tutto. C'è poco da fare. Bene, Agostino, proseguiamo, cosa dici? Sì, gli dischi di Agostino. I dischi di Agostino, hai ragione. Allora, io vengo dalla musica soft, nel senso che mi piacciono molto le canzoni melodiche, ma soprattutto vengo dal sound di Philadelphia, il TSOP, con le voci soul praticamente degli anni, fine anni 70, inizio anni 80, e tipo, non so, Lou Rawls, Billy Paul, O'Jays, Mother, Father, Sister and Brother, ma il cantante che amo moltissimo di quell'anno lì, di quel periodo lì, è Teddy Pendergrass, che è un cantante che ha una voce splendida, secondo il mio modesto parere e gusti, insomma, ovviamente. Quindi ho la discografia quasi completa di questo artista che non c'è più, ci ha lasciato quattro anni fa, e ha fatto delle canzoni molto belle per chi ama il soul. Poi mi piace Lionel Richie, sempre quello vecchio, ma c'è un disco più che Lionel Richie, mi porterei quello di Dionne Warwick, che si chiama semplicemente Dionne, dove c'è una canzone che si chiama My Everlasting Love. E poi ci sono altre canzoni suonate al pianoforte da Barry Manilow, e c'è anche Burt Bacharach insieme, insomma, quindi è un disco strepitoso. E invece per quanto riguarda l'italiano, so che vi metterete a ridere, ma io stavo di dire tutto. Purtroppo sì, non so, vediamo, spara le tue c'è curiosità un musicali. Allora io vi dico il titolo del disco, dai. Il titolo del disco è Il colore dei pensieri. Sapete di chi è? Ricky Gianco. No, non è proprio di Ricky. Magari fosse di Ricky Gianco, magari non è proprio di Ricky Gianco. Malzolio. No, non è, vabbè, insomma, siamo a perdere. Non è proprio di È una band. Purtroppo è una band. Trevigiano 1. Suona fra qualche settimana qua a Padova. Dimmi. No, non sono trevigiane le orme, sono veneziane. I Pooh. Brava. Brava, purtroppo sono i Pooh. Mi salverà la... Io sto scherzando con Agostino. Chi fermerà allora, voi dovete sapere che Agostino ha tutto di più. Tutto, anche i bootleg, se esistono, e le cose incise in modo con un numero limitato di copie, ha completamente tutto. No, ma c'è un discorso da fare. Io non voglio difendere i miei gusti, però a me piace soprattutto la musica sconosciuta dei Pooh. Cioè, ecco, non nelle canzoni ne che fatte sentite tanti, continuamente, tipo Chi fermerà la musica, che a me non piace assolutamente, ma ci sono delle canzoni molto belle che non hanno avuto la visibilità, il successo insomma. Questo è io tanto... di più amo e tra l'altro contrasto, forse avremo la possibilità, ce l'ho contrasto, lo so. forse avremo la possibilità di avere Red Canzian qui, detto che ci viene a regalare un po' di sua presenza con i 40 anni quest'anno di Parsifal, che è un grande disco, è un grande disco. Se uno ama il prog, tu sei un prog assolutamente. Parsifal è uno dei dischi prog italiani, scritto dai Pooh, fatto dai Pooh, eseguito dai Pooh, però è un disco prog molto interessante. Ecco, io salverei quello di Pooh, ecco. Assolutamente. Cari Dau Sasha, noi veniamo dal 76 che siamo nelle radio, quindi insomma abbiamo tanta di quella musica alle spalle, vero Maurizio? Sì, tanta musica, ma tanta volontà, tanta poi, passione. Insomma, ognuno ha i suoi gusti. Sì, certo. Ma tanta passione con i ragazzi di stasera. Come dicevano dei nostri amici, Gusti se gusti. Bravo. Bravo. Diceva bravo. Il gatto. Adesso cosa sentiamo? Un altro pezzo dal disco? Dai, no, sì. Io direi di fare qualcosa dal vivo. Ma quanti pezzi avete dal vivo? Altri voi? Due. Sì. Ecco, allora uno dal vivo potete facciamo fare la contrada. L'ultimo, dei papaveri, l'ultimo, no? Oh, lo facciamo alla fine. L'ultimo ce lo tenete dal vivo, è l'ultima canzone. Cosa volete fare allora adesso? Ascoltiamo una canzone dal disco. Volete sentire una canzone dal disco? Avete sì. scartato il secondo pezzo dal vivo che dovete fare? Lo devi chiedere alla nostra la fisarmonicista. Cosa dici, Giorgia? Va bene, dai, lo facciamo. Ecco, vedi. Non ho scelto. Violenza psicologica, così riusciamo ad ottenere tutto. Esattamente. Adesso si stanno preparando. Tau Shasha. Assolutamente dal vivo, quindi non vi preoccupate, stanno sistemando. Quando sono pronti? Pronti. Caucasica, poteva finire, poteva continuare all'infinito, no? O sbaglio, sì. Francesco? Non è così? Sì, ma sì, beh, questa chiaramente... sera era meglio finirla sì. qui. Sì, però l'idea sì, sì. dal vivo si può continuare finché volete voi. Sì, sì, sì. No, no, veramente è un pezzo che ha scovato Lorenzo. Sì, è proprio il primo... Dimmi. Giorgia. A Giorgia la scovata Giorgia. Di solito la usiamo come... Come bis. Come intro. No, l'intro è diversa. L'intro è quella balcanica. Questa la usiamo come spezza concerto. Ah, spezza questa, concerto. Questo è l'intermezzo. Ok, benissimo. È un pezzo vivace, danza caucasica, per niente si chiama così. Adesso mi pare, dopo aver fatto sentire un pezzo dal vivo, l'ultimo pezzo lo faremo sentire dal vivo a fine del programma. Abbiamo una serie di pezzi da sentire da scaletta. Sì, ne abbiamo ancora tre. Ebbene. E io direi di andare subito, così magari ci riposiamo, vi riposate meglio, esattamente, insomma, meglio. Con la canzone che chiude il disco, L'amico di Pezza. C'è qualcuno che mi ci vuole dire qualcosa in merito? Vogliamo parlare un momento del pezzo? È dedicata a un nostro caro amico, ciao Poz. Ciao Poz, sei tutti ciao, noi Poz. Chi è che l'ha scritto? Non state a comprare che il gatto è brutto. Tu l'hai scritto tu? Sì. Questo è un amico... Ma no, ma è un amicone, è un bravissimo ragazzo. Perché solo di che lui pezza? Parla una montagna, alle volte lo guardi e dici no, ma perché stai ancora parlando? Conosco già questa storia, me l'hai già detto. Lui in questo momento la sta vivendo malissimo, è a casa che piange abbracciando un cuscino. Però è un ragazzo d'oro. Gli togli la batteria, vedrai che... Ma ho dovuto scrivere una canzone per lui. Bello questo è un sintomo di grande amicizia per questa persona. L'amico di pezza, sì. Ci chiama questo amico? Poz. L'amico di pezza. Dimmi perché mai dovrai rimanere qui ad ascoltare le tue parole inutili. Tu che parli sempre così tanto e che sempre in tasca il consiglio giusto. Tu che conosci farmi vomitare. Ma sai che non ce la faccio più, preferisco quasi un amico di peluche. Almeno lui non mi assillerà con perle di saggezza, pazienza se di pezza. Io potrei starmene seduto più vicino a te, a risentire tutte le tue avventure, perché tu sai sempre cosa fare. Non ti lascerai mai imbrogliare da niente e da nessuno, questo è garantito, perché tu racconti le stesse cose fino a farmi vomitare. Ma sai che non ce la faccio più, preferisco quasi un amico di peluche. Almeno lui non mi assillerà con perle di saggezza, pazienza se di pezza. Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Dunque, un finale balcanico per un inizio punk. Che bello, avete. Dicevi giustamente. Beh, vieni davanti al microfono. Questo era un pezzo vecchio di un qualche anno fa. No, non lo dicevo io. Non dicevo. Beh, qualcuno lo diceva. Lui non c'era. Lui non c'era. Lo dicevi te, allora. No, lo esporrà Simone. Ecco. Espongo anche se non hai le competenze. Prego. Era un pezzo vecchio in ogni caso, che poi è stato ripreso, riarrangiato. Sì. Però il modo del punk c'era, si sentiva, veniva fuori. Anche se alla fine c'è la musica balcanica che rallenta il punk. Sì, infatti, personalmente è forse il pezzo che mi piace di più, anche da suonare proprio. Proprio da suonare, vi avevo chiesto a microfono spento, come vi disponete sette persone in un palco? Beh, davanti il cantante ovviamente, Federico. Di solito il povero batterista sta sempre in fondo. Sì, anche il bassista. Anche tante il bassista. Volte. No. Allora, il bassista è un rompiscatole assurdo, perché lui inizia su un angolo, non suonerò per poi molto, comincia a spingere, spinge la gente, ti arriva, ti sul sposta. Palco. Tu stai degli arpeggi difficili. Tu stai cantando, lui ti rompe la bocca perché arriva da dietro. Perché il basso è un po' voluminoso come strumento, no? Sì, mi avevano detto, guarda, te far casino sul palco, sennò gente non va, È giusto, abbia fatto piuttosto sbaglio io, faccio sbagliare gli altri, però ma, no, gente si diverte. Ma il basso è uno strumento fondamentale. Non lo sente nessuno. Come non lo sente nessuno? Come non lo sente nessuno? Anche se sbaglio. No, dai, comunque Federico davanti e dopo cerchiamo di mettere Serena, visto che canta anche lei, davanti e in evidenza anche Giorgia e Lorenza, ha fatto anche la rima. E Francesco di solito è a lato, però allo charme che comunque incita viene fuori, la folla, di solito rimango in camerino. Francesco, devo dirti una cosa, due mie amiche sono diventate grandi fans perché gli piace un sacco. Agli occhi di cerbiatto, Francesco. Sì, ma non dovevi dirlo in radio. Sì, ma no. Vabbè, così. Non va bene per conto. No, vabbè, non sto scherzo, dicendo scherzo. Niente. È che, insomma... Cosa volevi dire? Ci stanno confidando. Sì, cioè, ormai no, avevo una battuta in canna, me la. Cioè, il batterista è sempre quello un po' lontano. Come mai? Perché non si sposta da là? Non so che diciamo, via avanti, da là, ma... ma potrà mica spostare la batteria. Dai. No, ma io vado a trovarlo ogni tanto quando fanno strumentale. Io prendo il cimbaletto, vado là dietro con lui. Bello, parlo, bello, una bella cosa sta. Questa. Come si usava una volta negli anni 70. Che rapporto avete con i vostri fans, i vostri ascoltatori, insomma, i vostri spettatori? Beh, bello, soprattutto l'ultimo l'ultimo concerto. Sì. Salutiamo. E salutiamo appunto la nostra nuova fan, che è nostra amata di Due Maschi, amante, da quel concerto, la amante, amata, tutto quanto. Anche delle ragazze. Che si chiama Mamma Natura. Mamma Natura, sì. Che è una signorina, penso, che si è messa a ballare durante il nostro concerto e noi l'abbiamo notata. Per le movenze, per le fisionomie, la sensualità. E ha ballato per con noi sul palco. E allora l'abbiamo chiamata sul palco a ballare con noi. E poi ha baciato me, il batterista. No, Daniele no, ha baciato Federico. E per poi, cui per par condicio sta... dobbiamo salutare anche Asia, la Marianna e la Barbara. Asia è un mito, è un... Non ci dimentichiamo del nostro fan numero angeli. Uno. Dimmi. Il nostro fan numero uno, Moano. Moano e la Martina. Moano, sì. Ne avete, insomma, ne avete tanti fan. Seguaci. Beh, sì. Sono cinque e vorrei che ne fossero un po' di più. Sono cinque. Avete anche merchandising, cioè magliette, qualcos'altro in merito? Quando... No, per ora no, però le stiamo studiando. Ah, vedi che c'è qualcosina. Sono in progetto. Uno spiffero, prossimo disco sei già in cantiere? Certo, certo. Abbiamo due canzoni già finite che pensiamo di registrare a breve. E poi ne abbiamo altre quante? Quattro in cantiere. Tre, quattro in cantiere che stiamo finendo adesso con calma, perché abbiamo finito il disco ad aprile. Certo, allora. Certo, certo. E a proposito di disco, Agostino, chiediamo se avete qualche data imminente, sì, da fare. Beh, adesso la nostra chitarrista se ne va. Va in Russia. Va in Russia tre mesi, allora abbiamo deciso di sospendere, di sospendere, no, il, sì, il live e concentrarci sul in disco studio. Da fare. Mm. Sì, sì, sì, perché poi comunque anche quest'anno, l'anno scorso abbiamo suonato tantissimo, sì, live. Quest'anno pareva che non dovessimo mai suonare, su invece? E giù, alla fine abbiamo fatto abbastanza date. Diceva Francesco. Sì, sì, sì, abbiamo ritardato perché dovevamo buttare fuori il CD, eccetera, su e giù, poi alla fine comunque abbiamo suonato. E adesso ci vuole un pochino di pausa. Certo. 16 date in 6 mesi, insomma. Sono mica poche. Più altri progetti, siamo un po'... Sì, non sono anche moltissime, perché, però insomma, essendo in sette e avendo per quanto poco comunque anche lei ha altri progetti. Certo, certo. Mi diceva che è un progetto con Francesco, ci sono due pezzi di Celentano soli e Storia d'amore, mi pare, vero? Sì, suoneremo assieme. Sì, vabbè, più che altro è una cover band di De Gregori e di Andrea principalmente. Poi abbiamo altri cantautori e suoneremo assieme appunto il 4 ottobre, perché appunto la Serena non c'è, e allora noi cerchiamo un po' di rimpinguare il repertorio con, certo, due progetti diversi. Comunque, no, volevo far sottolineare che tutte le date dell'ultimo anno e di quest'anno ci sono state tutte proposte, non siamo andati in cerca di date. Siete stati fortunati allora. Sì, molto. Sì. Molto. Vuol dire che il disco è piaciuto? No, soprattutto il disco. Ma un live tira l'altro. Un live tira l'altro, la gente ti viene a sentire e dice: beh, venite anche di qua, di là, si sparge la voce e riesce a fare un bel giro. Cioè. Bene. Dimmi. Maurizio, ci facciamo un giro in osteria? Ah, come no, ben volentieri. Facciamolo. Vai. Dai, a cagarci. Hai deciso che non mi vuoi più. Susy, ti prego, mi devi ascoltare. Il mio cuore è gonfio d'amore per te. Vado all'osteria per dimenticare. Me ne vado via per non ricordare. Vado all'osteria per dimenticare, e ne vado via per non ricordare. Vado all'osteria per dimenticare. via, il mio cuore è gonfio di lacrime. Vado all'osteria per dimenticare, me ne vado via per non ricordare. Vado all'osteria per dimenticare, me ne vado via per non ricordare. Vado all'osteria per dimenticare, me ne vado via per non ricordare. Vado all'osteria. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Dunque, parlavamo dell'osteria, questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, e io parlavo con Daniele e con tutti gli altri. Io l'ho immaginato, l'ho sentito come elettrico. Sì, elettrico, ma non del tutto, ma è molto interessante quello che faceva Daniele, che si fermava e ripartiva, così ti stop and go, che non è mica una cosa semplice, è un po' complicata. Anche se i batteristi dicono ci piace fare tanto gli stop and go, è così? Fare stop and go ha il suo effetto, perché la pausa ha quasi più effetto di una nota. È vero, è vero, è vero. E poi una cosa soprattutto che sottolineo è quella che... il fare il CD, andare in studio, registrare, risentire le canzoni ci ha fatto fare veramente un salto di qualità. Sono anche d'accordo con te. Nell'arrangiamento e anche nel poi riproporre le canzoni dal vivo. Sì, sì, perché registrare in studio, trovarvi, cercare di limare certe cose è interessante, è fondamentale. Certo. Io direi, siete d'accordo, facciamo velocemente ascoltare anche questo Pasquale, che era proprio incurabile proprio. Tanto incurabile. Tanto incurabile, che è un vostro amico. No, questa è una storia. È una bella storia. Così. Un po' così. No, non parla di amici. Ok, sentiamo. Parla di un amico di Federico. Okay. Esatto, quando si dice così. Dai, parla di Federico. Diciamo autobiografico. L'incurabile Pasquale. L'incurabile Pasquale se ne va a destra e manca, col suo alito alcolico ed il passo mal fermo, con la calma imperturbabile di chi ha già visto tanto. L'incurabile Pasquale cammina fischiettando per le vie traverse illuminate dai lampioni, dove donne troppo giovani si danno come doni. L'incurabile Pasquale non ha niente mai felice, non importa dell'amore, è quel che dice. Ma il destino che sembrava segnato a volte sterza e ti lascia di lato. È un bicchiere ed un oste col sorriso, dammi da bere ed ancora sorriderò. Pasquale dormicchiando sull'erba si risvegliò e vide una banconota a terra. L'incurabile Pasquale ritornando verso casa ed una bimba ben vestita che con gli occhi lo implorava d'essere portata via da quella triste strada dove non c'è amore e dove non c'è sole. L'incurabile Pasquale, senza pensarci troppo, diede la banconota alla donna della sua vita. Ma il destino che sembrava segnato, quando sterza, a volte ti dà un bacio. Non è un bicchiere né un oste col sorriso, ma una ragazza senza più il vestito. E tra quelle lenzuola, tra vecchi mobili e candele, incontrai i tuoi begli occhi, un vuoto amaro come fiele. E pensare a quale spreco sia stato aver vissuto tanto tempo senza aver mai amato. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Cara Lorenza, sembrava una giga questa qua. Cosa dici? Leggermente. Sì, una giga forse no, una un po' troppo esagerato. Sì, una ballata. Una ballata molto, un po' veloce. Molto veloce. E perché molto ignorante veloce. Cosa vuol dire giga? La giga è una forma musicale. Sì, è una forma musicale molto antica. Nel periodo barocco la giga era una danza che veniva inizialmente ballata, poi solo suonata molto veloce. Io suono molte gighe di Vivaldi, soprattutto. Ecco, è stata anche appropriata dagli irlandesi. Sì, chiaro, è sempre una forma popolare. Esattamente, assolutamente popolare. Agostino, adesso ci siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. Allora, velocemente, gli ultimi dettagli per quanto riguarda questa band, cioè i Daushasha. Quindi, dove si può acquistare il disco? Il vostro sito, i prossimi concerti? Allora, il nostro sito è www.daushasha.it e lì potete trovare le news e qualche canzone in streaming gratuito. In più si può comprare il CD direttamente o facendoselo spedire a casa e si paga attraverso PayPal semplicemente, oppure si può comprare attraverso Google Play e quindi in modalità digitale. Oppure i concerti. O i nostri concerti sicuramente. Certo. E altri contatti, abbiamo la pagina Facebook, quindi facebook.com/daushasha. E la mail daushasha@gmail.com. Quindi c'è vasta possibilità, insomma. Scriviamo Daushasha su un motore di ricerca, qualcosa salta fuori. E se qualcuno vi volesse contattare per fare qualche concerto, siete sempre disponibili, insomma. Beh, sì. Sì. A parte quando torna Serena da... Sì, adesso saranno 3 mesi di stop. I prossimi 3 mesi di stop, poi... All'inizio dell'anno ti prossimo... stanno facendo tutta la colpa, Serena. Mi fai pena. Vabbè, comunque volevamo fare un po' di studi, di preparare il disco, esatto. Qualche pezzo nuovo, certo. Bene, allora intanto innanzitutto un grazie di cuore veramente ad essere venuti qui a Radio Veneto, che mi ringrazia di aver accettato l'invito. Grazie a voi, ci siamo divertiti. Grazie. E quindi io direi di nuovo di salutare, questa volta comincio dalle femminucce, comincio da te Serena, voce più chitarra elettrica. Ciao. La Giorgia alla fisarmonica. Ciao. Lorenza al violino. Ciao. E poi abbiamo Daniele alla batteria. Ciao. Simone al basso. Ciao. Francesco alla chitarra classica. Ciao. E Federico alla voce. Ciao. Ciao. Si sta mettendo a posto il mixer. Va bene, noi ci salutiamo con l'ultima canzone che si intitola La contrada di papaveri. Che è il pezzo che, grazie anche ad Alberto Pisco, che salutiamo ancora, che è il nostro curatore, abbiamo scelto come disco proposta di sto lancio. Una volta si chiamava disco proposta del vostro CD. A me è piaciuto molto, me e Alberto immediatamente, e per un mesetto consecutivo è andato in onda. Perfetto. L'appuntamento per quanto mi e ci riguarda, vero Maurizio, è a domani, sì, domani sera, ore 21 con un grande ritorno a distanza di un anno. Blu Radio Veneto è ancora fiera e orgogliosa di essere media partner di questa rassegna di musical. Io sarò in giuria come l'anno scorso, c'è questa rassegna di 6 serate dedicate al musical, ogni sera un musical diverso. Domani sera vengono a presentare di nuovo, ovviamente, insomma, Mamma Mia, che sono quelli che organizzano anche questa rassegna, che si chiama, ricordo, per la 3ª edizione Sognando Broadway. Quindi l'appuntamento si inizia con Mamma Mia, ma poi ci saranno perfino i Queen con We Will Rock You, o meglio il musical dedicato a loro, e poi insomma via via anche gli altri. Quindi l'appuntamento è alle 21 di domani sera e vi aspettiamo, insomma, sempre qui a Blu Radio Veneto. Ciao Daushasha. Ciao, grazie Blu Radio. Se avete il prossimo disco sapete dove dovete venire a presentare. Ok, certo, sarà grazie. Fatto. Ciao, grazie a voi. Ciao, buonanotte. Ciao. A tutti e grazie. Fabrizio triste dormiva nel suo giardino segreto, col cuore colmo piangeva, sognando un vecchio roseto. Tagliava triste gli alberi che lo avevano visto bambino, guardava i suoi papaveri, i fiori del proprio destino. Ma tra i villani nessuno lo capiva, da questo alto argine la vita era cattiva. Il gran giardiniere del conte, aiutato dai magici fiori, volava al di là del ponte, sorretto da esiliali. Avevano dato l'ordine di tagliare il bosco degli olmi, perché lì doveva sorgere una grande fabbrica d'armi, per armare i servi del conte a combattere altri servi e conquistare nuove terre su cui sgobbare come schiavi. I papaveri un tratto gli dissero: la torcia che tieni in mano non brucerà le stoppie, ma la reggia del villano. E i papaveri un tratto gli dissero: rendi giustizia alla gente, salva il giardino incantato e lascia alle fiamme il tuo conte. Ed ora lo vedi tra il vento che corre, che sorride, e dalle sue spalle la villa assalita da mille fiamme che liberano gli uomini boschi finta chi voleva ammazzargli il cuore per soldi e squallidi fini. Fabrizio triste si sveglia e si accorge d'aver sognato quello che tanti anni fa era stato un giardino incantato. Ed ora che dove sorgeva c'è una grande zona industriale, gli pianta un nuovo ciliegio per far ombra un cartello strada. Grazie.